Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va? Torniamo a parlare in questa trasmissione del sito ilpioniere.org che, tra le altre cose, contiene tutte le pubblicazioni del giornalino Il Pioniere dagli anni 50 fino agli anni 70. Quindi una gran mole di fogli, tutti disponibili a misura di click, ma difficilmente rintracciabili nella loro vastità. Un po' come quel disagio che ci prende quando entriamo in una grande biblioteca, dove troviamo tantissimi volumi ma non sappiamo proprio da dove partire. Qualcosa, insomma, simile a una grande agorafobia legata alla nostra capacità di scelta di fronte ad un'enorme offerta. Allora, in questo senso, gli archivisti del CRAP, il Comitato Ricerca Associazione Pionieri, hanno sfogliato uno per uno tutte le pagine del Pioniere, dalla sua nascita in poi, riportando poi le notizie su ogni tavola letta. Questo per rendere più agibile la consultazione per studiosi o curiosi. Di questo ne parliamo con Carlo Zaia, segretario del CRAP medesimo, subito chiedendogli di quanti numeri del Pioniere stiamo parlando, presenti complessivamente nel vostro sito. Sono 935 che vanno per 20 anni di uscite nelle varie gestioni che ci sono state. E sono tutti ormai digitalizzati e inseriti nel sito. Quindi voi li avete sfogliati uno per uno, un lavoraccio tremendo allora. Sì, è stato un lavoraccio tremendo, poi ultimamente abbiamo sfogliati uno per uno e abbiamo scritto tutti gli autori che si sono ritrovati e gli tipi di articoli che sono stati fatti. Abbiamo fatto un indice generale che comprende quasi 15.000 voci con titoli e compagnia. Sono stati scartati alcuni dove è anonimo, dove non era possibile, ma fino al resto. Fatto tutto, un lavorone, è caricato anche quello, pertanto gli studiosi possono benissimo andare a ricercarli. In quali campi avete diviso il vostro lavoro? Per intracciare autore sicuramente, titolo del brano e poi? Autore, titolo del brano, quando è uscito, il numero del giornale che è uscito, la pagina in cui si trovano, cioè praticamente è stata fatta una rubrica eccezionale, cioè tutto, uno se vuole fa la ricerca, poi se qualcuno gli interessa particolarmente fare ricerche più, visto che sono nel sito, noi possiamo mandargli anche l'Excel con cui abbiamo lavorato. Questo però vi ha fatto poi di fatto conoscere meglio il Pioniere, magari ci sono aspetti del Pioniere che non avevate ben presente, sfogliando uno per uno avete scandagliato questo giornalino di Rodari. Sì, perché noi non sapevamo, si sapeva più o meno quello che c'era dentro, ma oggi possiamo sapere chi l'ha scritto. Abbiamo scoperto che ci ha lavorato Pasolini, ci hanno lavorato un sacco di intellettuali degli anni 50 e 60 che erano la loro prima esperienza e gioventù, ma hanno portato un contributo a questo giornale. Guardando anche dal punto di vista dell'indice, il giornale ha avuto un suo sviluppo negli anni 50 e una decrescita negli anni 60 poi. Sì, questa è la realtà. Però voglio dire, oggi sappiamo tutto quello che c'è dentro, però c'è da studiarlo adesso, il lavoro che faremo piano piano. Ma non è un giornale, quindi, esaminandolo più da vicino, solo dei fumetti? No, sembra più un... come si chiama? Oggi li chiamiamo rotocalchi, una cosa... c'era di tutto, si parlava dai fumetto, è una parte essenziale, forse il principale, ma poi dopo c'era la storia, c'era l'educazione, c'erano rubriche particolari verso le ragazze. Teniamo conto che siamo negli anni 50, dove andare in vacanza, di tutto, c'era di tutto, è una cosa meravigliosa che stiamo scoprendo piano piano, certamente è datata, è uscito fra il 50 e il 70. Tu prima citavi il problema dell'anonimato, cioè alcuni testi difficili da assegnare a questo o quell'altro scrittore, disegnatore, come mai? Noi pensiamo, ma non possiamo dirle, visto che una volta non si usava molto scrivere i nomi degli autori, l'abbiamo riscontrato anche con altre persone. Quando abbiamo parlato per esempio con Gigli, Amedeo Gigli, lui diceva che io all'inizio preparavo un materiale senza mettere il nome, perché era così, gli anni 50 erano differenti da oggi. Tra Pasolini, Sciascia, Leardo, ecco, ma però queste cose sono rimaste, come dire, cancellate nella memoria futura. Che ragione ti sei fatto di questa cosa, di questo anonimato, ma del Pioniere? Ma probabilmente è cascato nell'oblio perché... fu fatta una scelta di continuare questo lavoro,